Abbiamo promesso un piccolo spazio per una breve comunicazione. Il professor Quaglioni introduce un attimo il professor Sià. Prego. Ecco, vorrei presentare brevemente, anche se non dovrebbe esserci una gran necessità di farlo, perché il professor Sià è ben noto, la figura è l'opera del professor Sià. Rani Pocha Sia insegna presso la Yale University nel Massachusetts, Herter Hall, e ha pubblicato lo scorso anno, come molti di loro sanno, un volume intitolato The Myth of Ritual Murder, il mito dell'omicidio rituale, interessandosi principalmente al versante germanico, al versante tedesco della questione, ma dedicando anche un capitolo alla vicenda simoniniana. Il professor Sià è qui non solo per seguire i nostri lavori, ma anche per dare una breve comunicazione sopra un lavoro in fieri, sopra un work in progress, cioè la Yeshiva University, come ora egli stesso ci dirà, gli ha affidato uno studio sopra un manoscritto recentemente acquisito dall'Università Ebraica di New York, un manoscritto contenente i verbali dei processi trentini nella redazione tedesca. Sappiamo che a Trento è posseduto un secondo codice contenente una versione tedesca dei verbali, sappiamo che il vescovo Hinderbach ne fece confezionare alcune e il professor Sià è qui per darci cortesemente notizia di queste sue ricerche in corso e lo ringraziamo. Grazie. Mi dispiace che non parlo bene italiano, ma questa comunicazione è abbastanza breve. Acquistato Aaron Astor di Southby nel dicembre del 1987 per un somma abbastanza alto, $176,000, un manoscritto tedesco del processo di rituale omicidio a Trento è stato presentato al Museo della Yeshiva University a New York City. Il contenuto del manoscritto pare identico all'unico manoscritto tedesco del processo custodito nell'Archivio di Stato di Trento, nella sezione latina. Si tratta di 614 fogli scritti nella calligrafia di un unico scrivano, miniato in oro rosso celeste verde con lo stemma della casa di Wittenberg. Da testo si può dedurre che il manoscritto è stato preparato nel 1478, dato che inizia con il bollo di Sesto IV, che assolve il vescovo Giovanni Hindenbach per come presiedeva al processo. L'ultima sessione del manoscritto contiene interrogatorio e la condanna di Anna, datati 4 aprile 1476. Il confronto ai manoscritti latini del processo, i quali sono più diffusi, le uniche sessioni che mancano sono gli interrogatori dello svizzero Saneseus e sua moglie. In pratica, il manoscritto Yeshiva è una compilazione degli interrogatori di tutti gli ebrei, uomini e donne, coinvolti nel processo. Appare proprio probabile che il manoscritto sia stato commissionato da Francesco Gonzaga, vescovo di Mantova e canonico della cattedrale di Trento, la cui sorella Barbara sposò Eberardo Ribaputo, duca di Wittenberg. Dopotutto Barbara e Francesco erano tedeschi per metà, loro padre Luigi Marchese di Mantova, il padrone del pittore Andrea Mantegna, sposo Barbara di Brandenburgo. Ebra stesso, viaggiando in Italia, arrivò fino a Mantova nell'aprile del 1474, passando probabilmente per il Brennero e dunque attraversando Trento. Comunque, si può asserire che la prima destinazione del manoscritto Yeshiva fu la Biblioteca Ducale di Stuttgart. La delegatura attuale del manoscritto Yeshiva presenta la data 1615 e l'inscrizione Conventus Indaponensis Carmelitorum Discalicatorum. Non sono riuscito a documentare la trasmissione e posso soltanto speculare sul tragitto che era portato il manoscritto a Vienna. Tra il 1520 e il 1534 Wittenberg fu posta sotto l'amministrazione di un governatore austriaco dopo che Ulrich, duca di Wittenberg, fu bandito dall'imperatore per aver ammazzato un suo cavaliere. È possibile che il manoscritto Yeshiva, insieme ad altri documenti della biblioteca e della cancelleria ducale, fosse stato portato a Vienna dopo l'occupazione di Stuttgart. Il manoscritto rimase a Vienna fino all'inizio di questo secolo, quando passò a una collezione privata statunitense. Per quanto riguarda il suo contenuto, il manoscritto Yeshiva non aggiunge nessuna informazione nuova sul processo di Trento, i quali annali sono stati studiati in modo esauriente dal professor Diego Guaglione. La semplice esistenza del manoscritto però documenta la fortissima campagna propagandistica montata dal governo del vescovo Hindenbach per giustificare il processo. L'aver commissionato il manoscritto e la sua provenienza indicano la posizione centrale di Trento negli scambi culturali tra il Sacro Romano Impero e l'Italia. Nella sua posizione di feudo imperiale, la presenza tedesca fu mostrata dalla dominazione tedesca delle istituzioni di potere trentini. Una lettera contenuta negli archivi di Stato, scritta dall'imperatore al Papa, specifica la composizione del capitolo cattedratico come segue: 2/3 canonici tedeschi e 1/3 canonici italiani. La posizione del principe vescovo, come venne specificato nel giuramento di fede di Hindenbach a Sigismondo nel 1478, chiaramente indica la sua posizione di vasallo feudale dal conte di Tirolo. Fra Frumenzio che ha enfatizzato il contesto tedesco del processo contro gli ebrei, la mia esaminazione del manoscritto Yeshiva ed altri documenti pertinenti al processo mi porta a assecondare la sua tesi e a aggiungere che il processo di Trento era soprattutto una faccenda imperiale. Nell'ottobre del 1475 il vescovo Hindenbach ha incaricato il domenicano Heinrich Schlestadt di accumulare testimonianza di altri omicidi rituali nella Germania del Sud. Testimonianza giurate provenendo da Ravensburg, Pfullendorf ed Endingen in Baden e Württemberg furono raccolte e disposte nell'archivio vescovale. Il processo di Endingen nel 1470 divenne un archetipo della calunnia contro gli ebrei nella Germania del Sud. Nella sua capacità di vicino del Margravio di Baden è molto probabile che Eberhard di Wittenberg abbia avuto notizie del processo, le quali a loro volta abbiano provocato il suo interesse per acquistare una copia del Libri Miraculorum Beati Simonis. Un altro legame tra Trento e l'impero è stato documentato quasi un secolo fa da Moritz Stern. Stern, la cui visita a Trento ha provocato il non amichevole commento di Giuseppe Divina nella sua storia di Beato Simone, ha visto subito il nesso tra i processi contro gli ebrei di Trento e quello di Regensburg. Al suo ritorno dall'Italia, il vescovo Heinrich di Regensburg acquistò una copia della testimonianza di Wolfgang, ebreo istriale, che si convertì, e incoraggiò il Consiglio Comunale di Regensburg di procedere contro gli ebrei in un processo che sarebbe durato 4 anni. Simone da Trento divenne il prototipo mito europeo del bambino martire. La sua storia gioca un ruolo importante nel Weltchronisch di Hartmut Schedel, pubblicato a Norimberga nel 1493. Simone fu commemorato in una cronaca di Colonia ed in un bel noto dipinto da Francoforte. Per concludere, il manoscritto Yeshiva è una testimonianza agli scambi stretti, sia politici che intellettuali, tra la Germania del Sud e l'Italia durante il Rinascimento. Nella sua capacità di fondatore dell'Università di Tübingen e di patrono dell'umanesimo di Wittenberg, interesse di Eberhard nel processo per omicidio rituale rispecchia i legami intimi tra umanesimo e antisemitismo a Trento, con l'uscita delle forze più malefiche dietro a quel secolo di rinascita culturale. Grazie. Grazie. Il padre Eckert ha un'osservazione forse al riguardo. Bücher haben ihre Schicksale. Das ist mir gerade im Zusammenhang mit dem Trienter Prozess deutlich geworden. Bernhard Bischof hat die eben erwähnte Handschrift vor nunmehr 32 Jahren noch in Österreich einsehen können. Ich habe damals in meinem zweiten Aufsatz über die Akten Folgendes bemerken können. Noch in Innsbruck benutzte Moritz Stern die dortigen Prozessberichte mit der damaligen Signatur Trienter Archiv C69 und so weiter. Die unter 1 Nummer 1a befindlichen deutschen Verhörberichte in Innsbruck waren Auszüge aus den lateinischen. Es waren aber nicht die einzigen in deutscher Sprache verfassten Prozessberichte. Schon Bernhard Walde in seinem Buch Christliche Hebraisten hat auf solche Texte aufmerksam gemacht. Bernhard Bischof, einer der großen Medievisten unseres Jahrhunderts, hat in seinem Aufsatz Frater Erhardus, Ordinis Predicatorum, ein Hebraist des 15. Jahrhunderts, im historischen Jahrbuch 1937 den entscheidenden Passus folgendermaßen übersetzt. So offenbart es das Geständnis der Tridentiner Juden, wie es in den Akten der gegen sie geführten Prozesse steht. Diese Akten habe ich lange Zeit sorgfältig bewahren und hüten müssen, damit sie nicht entwendet oder in irgendeinem Punkt verfälscht würden. Die Übersetzung ist ins Deutsche, die ich angefertigt habe, umfasst mehr als 24 Sesterzen, das heißt 288 Blätter. Als Übersetzer weist er den Schreiber von CLM 18.526b aus. Der Kodex befand sich ursprünglich in Tegernsee und wurde von dem dortigen Bibliothekar Ambrosius Schwarzenbeck, einem Dominikaner namens Ehart, als Verfasser zugesprochen. Bischof hält es für wahrscheinlich, dass dieser Dominikaner mit Ehardus Streitberger aus Pettau identisch ist, der für eine Zeit lang im Regensburger Konvent gelebt hat. Wo Petrus Nigri, ein bekannter Hebraist des 15. Jahrhunderts, der seinerseits ebenfalls mit der Redaktion der Prozessakten betraut war, eine Pflegestätte hebräischer Studien zu gründen beabsichtigte. Die in der Bearbeitung zur Pessach-Haggadah erwähnte Übersetzung wies Bischof als im Privatbesitz bzw. im Auktionshandel befindlich nach. Bis 1936 beim Antiquariat McBrothers in London, 1937 bei Sosby & Co. Vorbesitzer war der Wiener Karmelitenkonvent. Die andere Geschichte haben Sie bereits gehört, nämlich die, warum die Handschrift in Württemberg war, wozu ich ein Politikum hinzusetzen möchte. Dieses Politikum besteht darin, dass das Fürstbistum Trient nicht unabhängig war, sondern in Abhängigkeit von Tirol. Und so, wie meine Heimatstadt Köln sich Bundesgenossen suchte gegen den übermächtigen Erzbischof, von dem Köln ja frei wurde, so hat sich Trient Bundesgenossen gesucht und zum Beispiel in Württemberg gefunden, woher das vitale Interesse und der Austausch zwischen Württemberg und Trient hier kommt. Sie haben eben gehört, Eberhard im Bart, Zeitgenosse, so kommen. Das will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich möchte noch einmal unterstreichen, dass tatsächlich aus den Trienter Prozessakten und dass aus den Trienter Akten hervorgeht, dass tatsächlich an die erwähnten Orte Pfullendorf, Ending, Ravensburg, Bischof Hinderbach zum Beweis seiner These, dass hier ein Prozess, dass hier der Prozess zurechtgeführt wurde, einen Dominikaner namens Heinrich aus Trient geschickt hat, um eben Erhebungen über diese Prozesse, die sich dort ereignet hatten oder haben sollten, einzuziehen. Ich habe damals Bischofs Vermutung zugestimmt, dass es sich bei den deutschen Übersetzungen oder Bearbeitung der Prozessakten von Trient um Auftragsarbeiten des Bischofs Johannes Hinderbach handelt, den wir damit als einen der Verantwortlichen über den Podestat hinaus im Prozess erkennen. Nachdem die Entscheidung des Papstes Sixtus IV. Bereits die Stimme der Gegner zum Schweigen gebracht hatte, sollten nun die deutschen Prozessakten angesehene Persönlichkeiten aus dem Laienstand, insbesondere die Fürsten, für den Standpunkt der Tridentiner, sprich an erster Stelle den Bischof Hinderbach, gewinnen. Dass er sich vor allem an Eberhard im Bart wandte, mag jedoch auch in der zeitweiligen Gegnerschaft zum Herzog Sigismund begründet sein. Denn mit dem Prozess gegen die Juden sollten unter anderem auch die Hoheitsrechte von Trient gegenüber behauptet werden. Das heißt, wir haben es bei dem Prozess gegen die Trienter Juden mit einem Motiv komplex zu tun. Niemals sind in der Geschichte eigentlich Dinge monokausal, sondern sie haben sehr verschiedene Ursachen. Eine der Ursachen war das Bestreben Hinderbachs, die Selbstständigkeit Trients gegenüber Tirol zu behaupten. Ich bin damals 1964 auf eine Mauer gestoßen. Ich hatte herausgebracht, dass diese Handschrift in der Rosenbach Foundation war. Diese hatte die Handschrift bereits verkauft. Aber 1964 war die Auskunft, die mir die Rosenbach Foundation gab, die Handschrift sei an einen Privaten verkauft, der Interesse daran habe, dass die Sache totgeschwiegen werde. So 1964. Man muss der Yeshiva University dankbar sein, dass sie die Handschrift nicht nur gekauft hat, sondern dass sie inzwischen diese auch der Forschung zugänglich macht. Riassumo molto, anche perché buona parte del discorso è anche leggibile in questo contributo scientifico del padre Eckert nel volume Miscellanea Medievalia, quarto volume. Da un lato il padre Eckert segnala quello che è stato il contributo del paleografo Bernard Bischoff per la storia del codice, da quando è passato dai Carmelitani di Vienna a varie altre mani. Secondo, c'è una supposizione o una indicazione sulle motivazioni che possono aver indotto il Hinderbach probabilmente già a fare o a far fare, a commissionare lui traduzioni tedesche degli atti per diffonderle, e l'intenzione politica che il padre Eckert ci consegna in questa occasione sarebbe stata questa, cioè la ricerca di certe coperture e alleanze da parte del vescovo Hinderbach anche tra i principi tedeschi in chiave antitirolese, cioè in chiave di una tal quale autonomia e copertura della propria azione rispetto invece alla posizione di semisovranità rispetto al Tirolo in cui Trento si trova. Poi mi pare interessante la testimonianza, adesso i particolari io non lo ricordo, padre Eckert ha cercato di seguire le sorti di questo codice anche dopo la seconda guerra. A un certo punto la pista si è perduta e l'indagine in terra tedesca non procedeva oltre perché gli interessati si rifiutavano a dare qualsiasi informazione in riguardo. Si felicita pertanto che il codice adesso è riemerso in sede così illustre appunto come la Jewish University e che provveda ad una sua regolare pubblicazione. Das Besondere liegt nur noch darin, dass gerade dieser Codex, der jetzt in der Yeshiva University sich befindet, hebräische Texte enthält. Dadurch unterscheidet sich dieser Codex von den anderen Kodizes. Denn zum Beispiel im Wiener Codex, der auch die Prozesse gegen sämtliche weiblichen Angeklagten enthält, heißt es zwar immer, jetzt folgt der hebräische Text, aber er folgt nicht, denn der Schreiber war offensichtlich nicht in der Lage, Hebräisch zu schreiben. Und so taucht da immer eine Lacuna auf, da wo eigentlich der hebräische Text stehen müsste. Aber in dieser deutschen Übersetzung gab es, wie ich eben gesagt habe, es gab ja Hebraisten und zum Beispiel den Dominikaner, die haben natürlich Hebräisch schreiben können und sie haben diese hebräischen Texte tatsächlich eingefügt. Deshalb war es ein großes Unglück, dass dieser Kodex nicht mehr greifbar war seit 1937 und es ist wirklich ein großes Glück, denn damit haben wir nicht nur einen Traditionszeugen, der uns zeigt, wie der Prozess auch propagandistisch ausgewertet wurde, sondern wir haben auch eine Möglichkeit, unmittelbar die Stimme der Juden noch zu vernehmen. Das ist nämlich das Interessante an diesen hebräischen Texten. Se posso tradurre intanto, dice semplicemente questo, che sì, sì, ma io adesso traduco quello che il padre ha detto, nient'altro. Dunque dice che l'unica cosa che differenzia quanto ai contenuti, non quanto alla lingua perché sono latini gli altri testi paralleli, ma quanto ai contenuti, che diversifica nel contenuto questa copia tedesca degli atti processuali, è il fatto che i testi ebraici in questo esemplare tedesco sono riportati in lettere ebraiche e nella loro testimonianza originale, mentre le altre copie li riassumono, li parafrasano o li ridanno insomma in modo molto meno completo. Come nel codice di Trento. Appunto. È solo in questo che si possiede il tenore esatto in lettere ebraiche dei testi ebraici contenuti nel processo. Prego. Era posso rispondere. Aggiungere qualche cosa in inglese? Professor David Berger, who teaches in New York, has looked at the Hebrew inscriptions in the Yeshiva manuscript. And he has determined that they were added on later by somebody who probably presented him with the text of the Haggadah, because there are mistakes of transcriptions. For example, not knowing exactly how to put the consonantal points So there are some elemental mistakes in the transcriptions from the Haggadah text, which to an expert would seem ridiculous, but it is all done in a very elaborate hand with lines underlined. And so the intention is to make this authentic, but the end result upon a scholarly examination is to expose the ridiculous situation behind this fabrication. Non ho capito bene il nome del professore che ha David Berger dell'Università di New York, avrebbe appurato che molte delle frasi che in lettere ebraiche ricorrono nel manoscritto ora alla Yeshiva University derivano dalla Haggadah di Pesach. Io confermo, del resto io e con il professor Rassia abbiamo scambiato un po' di corrispondenza epistolare in questo periodo, sono anch'io convinto che la diversa destinazione dei codici in traduzione tedesca rispetto ai codici latini, dei verbali, dei processi, sia contrassegnata da una parte dalla trascrizione delle frasi in ebraico, in lettere ebraiche, dall'altra attraverso la traslitterazione che doveva rendersi necessaria in una copia ufficiale, che doveva servire per esempio a Roma alla definizione della causa.